2024. 2024 di Enrico Pagliarini. Ed eccoci di nuovo, questa è la puntata del 3 maggio 2014, benvenuti o bentornati. 2024, il programma di Radio 24 dedicato alla tecnologia. Io sono Enrico Pagliarini, potete raggiungerci scrivendo a 2024@radio24.it. Tra poco parleremo di biscotti. Si chiamano così, traducendo in modo molto diretto, i cookies, ma in questo caso sono biscotti digitali che vengono spediti sul nostro computer e servono per profilare gli utenti della rete internet. Sono uno degli ingredienti base dell'ecosistema digitale su internet per sostanzialmente creare campagne pubblicitarie e per poi erogare pubblicità. E sappiamo che la pubblicità è una delle, o meglio direi l'ingrediente principale che serve poi per mantenere gran parte dei servizi gratuiti su internet. Parleremo anche di veicoli e della infotronica di bordo dei veicoli, sicuramente sulle automobili. Principalmente le automobili, nei prossimi anni vedremo una trasformazione grazie ai sistemi elettronici molto molto importante. Iniziamo con alcune notizie in breve della settimana. Digital News. Microsoft ha pubblicato un aggiornamento che corregge i problemi scoperti su Internet Explorer il 26 aprile. Nonostante l'allarme di alcuni governi, Microsoft ritiene che il numero degli attacchi che hanno sfruttato la vulnerabilità sia limitato. L'aggiornamento, che può essere fatto con Windows Update, vale anche per il sistema operativo XP, il cui supporto è terminato l'8 aprile. Digital News. A proposito di programmi per navigare in Internet, indipendentemente dalla versione, Internet Explorer rimane ampiamente al primo posto, con una quota di mercato del 57,8%. Secondo Net Application, al secondo posto c'è Chrome con il 17,9%, seguito a breve distanza da Firefox al 17%. Proprio questa settimana Mozilla ha presentato la versione numero 29 di Firefox. Digital News. Dopo 25 anni, l'Italia esce dalla lista nera dei paesi che non tutelano abbastanza la proprietà intellettuale anche su Internet. La lista 2014, compilata dal governo americano, vede l'Ucraina come principale paese da monitorare. Esce dai riflettori anche la Spagna, mentre Bulgaria, Romania e Grecia sono gli unici paesi presenti dell'Unione Europea. Digital News. Yahoo e Microsoft entrano nella produzione di serie TV originali. Yahoo ne realizzerà alcune, mentre Microsoft, per i clienti Xbox, ha già preso accordi per 12 serie esclusive. Le due aziende entrano dunque in competizione con Netflix, Amazon, Google e Hulu. La notizia riguarda per ora solo il mercato americano, ma è indicativa di una tendenza inarrestabile. Adesso 2024 ci occupiamo di privacy e della navigazione su internet che chi anche in Italia naviga su internet fa tutti i giorni. Probabilmente vi sarà già successo, perché su molti siti internazionali o anche su alcuni siti italiani ci viene fatta una domanda quando entriamo la prima volta della nostra sessione di navigazione, se accettiamo i cookies. Probabilmente molti dei nostri ascoltatori sanno di cosa stiamo parlando, altri non sanno, cliccano ok e proseguono. Questa è una richiesta che ci verrà, che molto probabilmente ci verrà fatta sempre più spesso, e questo creerà una seccatura per gli utenti della rete. Vogliamo parlare di questo problema che vista dall'altro lato della rete internet, dal lato degli operatori, è un problema forse più grave, ma naturalmente stiamo parlando anche di un sistema che supporta tutto il mondo della pubblicità, perché il tracciamento degli utenti, delle caratteristiche, dei desideri degli utenti serve poi per gestire le campagne pubblicitarie, eccetera eccetera. È un mondo piuttosto complesso, ma potremmo dire è quel mondo che in qualche modo ripaga molti dei servizi della rete internet. Massimo Fubini è l'amministratore delegato di Contact Lab. Benvenuto, bentornato a 2024. Grazie Enrico e buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori. Tu ti occupi per lavoro, ma anche per studio, possiamo dire così, di questi temi legati alla privacy, legati al mondo della pubblicità. Voi come Contact Lab vi occupate anche delle campagne marketing, della pubblicità di grandi utenti internazionali, ha una visione anche europea. Partiamo dal problema. Effettivamente fra qualche settimana, forse mese, poi vedremo, magari ci saranno delle modifiche, potremmo essere costretti a tutte le volte che andiamo su un sito internet dover cliccare su accetta o non accetto i cookies che ci vengono mandati, quindi alcune informazioni che il sito manda sul nostro computer. Per quale motivo? Guarda, di fatto questo tipo di autorizzazione è già richiesta in moltissimi siti. Tuttavia la differenza la fa l'implementazione, nel senso che in molti siti io entro, ho un alert che mi dice che c'è un tracciamento con i cookie, che posso avere delle ulteriori informazioni e che posso accettarlo oppure rifiutarlo, ma posso tranquillamente andare avanti nella mia navigazione, quindi mi occupa una piccola fettina dello spazio del mio browser, ma non mi dà particolare fastidio e non mi limita neanche la navigazione. Il problema verrà fuori se ci saranno delle implementazioni più restrittive, ovvero nel momento in cui ci sarà la domanda accetti o non accetti i cookie, dalla quale non si può, tra virgolette, sfuggire, quindi bisogna rispondere per forza. A questo punto ovviamente le persone si troveranno davanti innanzitutto ad un, chiamiamolo, attrito, quindi un ulteriore click da fare prima di entrare nella pagina, ma soprattutto, e questo è l'elemento più importante, la stragrande maggioranza delle persone si troveranno a rispondere a un qualche cosa di cui non capiscono, non sanno veramente quelli che sono gli effetti. Questo è il problema di cui si sta discutendo in questo periodo, le modalità tecniche con le quali implementare questo tipo di domanda. Questo è un problema molto serio per l'industria e può rivelarsi, come tu dicevi, una grande scocciatura per gli utenti. Immaginiamo uno che per buona parte della giornata, insomma comunque per qualche ora durante il giorno, usa servizi internet, dover tutte le volte che entri in un sito rispondere a questa domanda e molto spesso, come dicevi, a una domanda della quale non si capisce molto bene il significato. Prima di parlare del motivo perché noi dovremmo fare probabilmente tutto questo su richiesta dei garanti della privacy, diciamo una parola sui cookies, che cosa sono e a che cosa servono. Sì, con piacere, perché ricordiamoci comunque che tutta questa operazione è comunque fatta non per dare fastidio agli utenti o mettergli un balzello in più, ma per cercare di proteggerli rispetto a un determinato tipo di tracciamento che potrebbe essere non voluto. Quindi le finalità di tutta questa operazione sono assolutamente positive. L'importante è che ovviamente un'operazione che ha delle finalità positive, quindi la tutela e il rispetto della privacy degli utenti, non porti in primis ovviamente una scocciatura agli utenti stessi, e ovviamente in secondo grado si guardano anche a quelli che sono gli interessi ovviamente di un'industria che ne potrebbe essere impattata. Ma giustamente capiamo che cosa sono i cookie, perché senza avere la visione chiara di che cos'è un cookie viene difficile poter discutere di questo argomento. Io ho provato a spiegare i cookie in molte maniere, e quella che probabilmente è più efficiente come maniera, efficace come spiegazione, è quella di un'etichetta. Un cookie è un'etichetta, quindi se proviamo a ragionare in quello che è il mondo normale, noi siamo noi, e invece di navigare in un sito entriamo in un negozio, è esattamente la stessa cosa. Il cookie sostanzialmente è una etichetta che il negozio / il negoziante ci può affibbiare nel momento in cui noi entriamo, e questa etichetta ci rimane sostanzialmente appiccicata addosso. Noi la possiamo cancellare in qualunque momento, esattamente come possiamo cancellare i cookie in qualunque momento, e l'unica caratteristica che lo distingue rispetto a un'etichetta che ci possiamo portare addosso è il fatto che le informazioni contenute in questa etichetta possono essere lette solo ed esclusivamente da colui che ci ha lasciato quel tipo di etichetta. Questo è in estrema sintesi una spiegazione di che cos'è un cookie. buchi. Per fare un esempio, nel momento in cui io ritorno nello stesso negozio, quindi nello stesso sito, quel negoziante barra quel sito può leggere le informazioni che ci ha lasciato su quell'etichetta. Quindi su quell'etichetta ci potrà aver scritto che io ho determinate preferenze, mi piacciono alcuni tipi di prodotti, oppure può aver scritto che l'ultima visita che ha fatto nel negozio barra nel sito è una settimana fa, un mese fa, un anno fa. Quindi l'utente, il sito, il negoziante può scrivere in questo cookie qualunque tipo di informazione. Faccio io la parte del più complicato, quindi riporto tutto al mondo internet. Tutte le volte che con il nostro computer, con il nostro browser di navigazione, il programma di navigazione, Firefox, Internet Explorer, Chrome, Safari, eccetera, eccetera, navighiamo su un sito, quel sito ci invia queste informazioni, un piccolo file che viene salvato sul nostro computer dove vengono appunto salvate le preferenze. Vale per tutti i siti, in modo particolare per il commercio elettronico, ma non solo per il commercio elettronico. Il sito sa un po' di cose. Ad esempio, se noi andiamo su un sito e cerchiamo un volo per New York, quando tornerò su quel sito, il sito sa perché ci ha mandato un cookie. Se su quel cookies magari ci viene scritto che io ho guardato recentemente un volo per New York e magari ci vengono messe delle pubblicità su un volo per New York. Diciamo che i cookies servono prevalentemente per gestire campagne pubblicitarie o non solo? Ma allora, innanzitutto vorrei fare una piccolissima precisazione a quello che hai detto, che è sostanzialmente corretto, ma nel momento in cui uno entra su un sito, la prima operazione che fa quel sito non è quella di mandarci un cookie, ma è di andare a vedere se noi abbiamo già dei cookie che lui ci ha dato in precedenza. Questa è la prima operazione che fa, perché se c'è già un cookie, lui può leggerne le informazioni e comportarsi di conseguenza, proprio perché riconosce il fatto che noi siamo degli utenti che tornano in quel sito e magari in quel cookie ci sono scritte appunto delle informazioni legate al tipo di voli che noi abbiamo già cercato, piuttosto che alle pagine sulle quali abbiamo cliccato all'interno di quel sito, o le pubblicità che noi abbiamo già visto. Solo in seconda istanza, a questo punto, il sito può aggiornare quel cookie, oppure, se noi non abbiamo nessun cookie e quindi siamo un nuovo visitatore, ovviamente mandarcene uno che poi aggiornerà nel tempo. Questo per dare proprio l'idea di come funziona la trasmissione delle informazioni. Poi, per quello che riguarda il mercato pubblicitario, senza ombra di dubbio, molti dei cookie vengono utilizzati per finalità pubblicitarie, in particolare quelle, adesso aggiungeremo un pezzettino di complicazione, quelli third party, mentre i cookie first party sono quelli che vengono utilizzati dal sito stesso per le proprie finalità, proprio come si diceva prima, ad esempio un carrello di commercio elettronico per ricordarsi i prodotti che sono stati inseriti dentro, o le preferenze in merito alla lingua con la quale io voglio navigare sul sito, o le preferenze che riguardano la valuta con la quale io voglio vedere i prezzi sul sito stesso. Allora Massimo, a questo punto ci fermiamo, ci sono le notizie che arrivano da strade e autostrade, questo è 2024, riprendiamo tra un minuto. 2024 è anche su Facebook e Twitter. Cerca 2024 o Enrico Pagliarini. Riprendiamo questa puntata di 2024. Stiamo parlando di cookies, cioè di quel sistema con cui i siti web ci tracciano, cioè conoscono le nostre abitudini su internet. I cookies possono essere una grande comodità, in alcuni casi sono veramente comodi, quando servono ad esempio per ricordare le impostazioni che abbiamo messo su un sito internet, le password, ad esempio, torniamo su un sito e non dobbiamo digitarle nuovamente. Ma possono essere anche una minaccia, cioè un problema relativo alla nostra privacy, cioè quando, potremmo dire, il sito si fa un po' troppo gli affari nostri. Allora, per questo motivo i garanti della privacy europei chiedono maggiore tutela del consumatore. Ne stiamo parlando con Massimo Fubini, che è amministratore delegato di Contact Lab. Allora, Massimo, questo è effettivamente un problema ed è il motivo appunto per cui i garanti privacy chiedono agli operatori della rete internet, il che vuol dire a tutti i siti internet potenzialmente, maggiore tutela, cioè una maggiore informazione del consumatore, che in questo caso è il navigatore della rete internet. Ma il problema sostanzialmente rientra sotto il tema della profilazione. Qualunque tipo di sistema che può profilare un utente e quindi capirne quelle che sono le preferenze di navigazione, le preferenze di prodotto, cioè qualunque tipo di sistema che ci tracci, ovviamente deve essere trasparente nei confronti dell'utente, quindi il sito deve dire attenzione che io ti sto tracciando e utilizzerò queste informazioni in questa modalità, le utilizzerò solo io piuttosto che le lascerò vedere anche a qualcun altro, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi normale, come dire, trasparenza in quella che è un'attività di profilazione. I cookie sono una tecnologia che permettono una profilazione particolarmente puntuale e soprattutto una profilazione di natura comportamentale, quindi molto più profonda rispetto a quella profilazione che si può avere nel momento in cui io compilo un form e gli dico che sono un uomo, una donna, ho una certa età, vivo in un certo posto. Quelle sono comunque delle informazioni di profilazione, ma che vengono date una tantum, una sola volta. Il tracciamento della navigazione, che può avvenire tramite i cookie, ovviamente è una profilazione comportamentale continuativa e di conseguenza più profonda, perché va a toccare effettivamente le preferenze degli utenti, e quindi il garante giustamente dice: cari cittadini, voi dovete essere avvisati da parte di coloro che vi stanno tracciando e dovete avere l'opportunità di poter navigare con o senza il tracciamento. Quindi non vi può essere negata la navigazione in un sito se voi non accettate il tracciamento. Come dire, il tracciamento non è un qualche cosa che vi devono far sorbire necessariamente se voi volete utilizzare quel sito. Tu devi poter avere accesso a quel determinato servizio anche se non vuoi essere tracciato. Questa è la giusta richiesta che viene ovviamente richiesta dal garante. Questo però si potrebbe trasformare in una grande scocciatura. Tu hai recentemente scritto su lavoce.info che si potrebbe facilmente calcolare il tempo perso di una persona che naviga su internet a cliccare accetto, oppure non accetto, dipende dai punti di vista, però molto probabilmente, così come oggi si fa spesso con le applicazioni, milioni di persone quando scaricano le applicazioni sullo smartphone accettano cose di cui ignorano assolutamente il contenuto, creando poi anche in alcuni momenti dei seri problemi. Trovare l'equilibrio di questa faccenda è un po' complicato, in effetti. Ma la mia personale posizione è la seguente: io sono dell'idea che questo tipo di attenzione da parte del garante sia non solo assolutamente legittima, ma sia auspicabile che venga più che portata avanti, perché comunque la privacy delle persone è un valore molto molto rilevante. Quindi non critico questo tipo di direzione, ma critico la modalità con la quale viene implementata, non tanto perché questa possa creare problemi alle aziende, cosa che di per sé è ovviamente un danno, ma perché credo che l'attuale modo con il quale si è interpretato questa modalità sia dannoso per gli utenti e non protegga la privacy degli utenti, e quindi sostanzialmente non ha veramente molto senso. Perché dico questo? Perché ovviamente innanzitutto ci vuole education. Senza l'educazione, senza il fatto che le persone sappiano che cosa stanno rispondendo, ovviamente qualunque sistema perde di significato. Quindi credo che il primo obiettivo del garante o in generale o dei siti sia quello di riuscire a spiegare in parole povere, in parole chiare, qual è la tipologia del trattamento che viene effettuato, e già con questo potremmo fare dei grossi passi avanti. Il secondo elemento è proprio la modalità tecnica con la quale viene implementata questo tipo di protezione. Mi spiego meglio. Il garante dice che Ogni qualvolta si entra in un sito, verrà richiesta ovviamente l'autorizzazione al trattamento, per i dati riguardanti i cookie. Per delle modalità tecniche che adesso non voglio neanche stare a discutere perché sono effettivamente un pochettino complesse, il risultato di questa operazione sarà che ogni qualvolta io entro in un sito, nel sito di un quotidiano, nel sito della televisione per vedere i programmi e così via, tutte le volte mi verrà chiesta l'autorizzazione al trattamento. E quindi questa diventa effettivamente una grandissima scocciatura. E il problema principale è che non solo quello che è il tempo perso che gli utenti avranno, che è stato calcolato in giornate nell'arco di un anno, quindi veramente, veramente molto, molto tempo, ma il fatto è che la gente alla fine non leggerà più quello che ci sarà scritto, andrà semplicemente a dire o sì o no. Un po' come succede oggi quando si firmano i moduli per la privacy, si firma e non si legge quasi nulla. E questa è una triste verità, i moduli della privacy sono veramente troppo lunghi, le persone un pochino più sofisticate sanno che tipicamente la parte necessaria è il primo pezzettino, la parte facoltativa, quindi quella che autorizza a mandare la pubblicità o a dare i dati ai terzi, è la seconda e la terza casellina, quindi le persone, come dire, più avvezze, che sono più attente, dicono sì, no, no, e invece tutte le altre dicono sì. Questo è quello che succede. Se dentro quelle caselline lì ci fosse scritto che non autorizzo al trattamento, ma mi autorizzi a svuotarti il conto corrente bancario, eccetera, eccetera, la gente direbbe di sì, firmerebbe sotto senza neanche guardare. Questo è il problema. E se questa domanda ti venisse posta 1.000 volte, ovviamente perderebbe di significato, perché non. Nessuno guarderebbe più. Quindi questa è la modalità, come dire, tecnica verso la quale si sta andando e che secondo me, francamente, non è particolarmente utile agli utenti finali. Soprattutto perché la possibilità di proteggersi dai cookie già esiste da molti anni in maniera cosiddetta centralizzata. Su tutti i browser, quindi Chrome, Safari, Explorer, Firefox, eccetera, eccetera, c'è la funzione privacy che dice: voglio accettare solo i cookie first party, cioè quando sono sul giornale, solo i cookie che mi dà il giornale e non i cookie che mi danno magari i circuiti pubblicitari o così via, oppure voglio accettare anche i cookie third party, oppure non voglio accettare nessun tipo di cookie. Poi si può andare ovviamente in modalità molto più complessa e dire voglio accettare i cookie di questo signore, ma non di quest'altro, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi, settando il proprio browser una sola volta, si riesce a risolvere questo tipo di problema nella maniera migliore. Quindi basterebbe veramente un pochettino di education. Sì, esatto, questo è il problema fondamentale. Bisognerebbe conoscere queste cose, sapere che cosa sono i cookies e da qui poi uno potrebbe andare anche nelle impostazioni del browser cambiandole e decidendo da solo quello che si vuole o non si vuole accettare. Un'ultima domanda, che cosa sostanzialmente sanno i siti di noi quando noi navighiamo? Perché le informazioni effettivamente che si possono raccogliere anche in altri modi, non solo con i cookies, sono moltissime. Ripeto, in alcuni casi sono informazioni che ci fanno anche comodo, ma effettivamente penso che molti navigatori della rete, se fossero messi di fronte a tutte le informazioni che i siti riescono a raccogliere dalla nostra navigazione, dalla nostra presenza su Facebook, dalle ricerche che facciamo col motore di ricerca, molti si spaventerebbero forse. Ma allora, innanzitutto dobbiamo fare una grandissima distinzione tra le informazioni che sono effettivamente nominative da quelle che tutto sommato sono anonime. Faccio un esempio. Se io entro su un qualunque sito, sono pulito da qualunque tipo di cookie, Facebook, Google, eccetera, eccetera, inizio a navigare e guardo determinate pagine, il sito probabilmente mi manderà un cookie cookie e dirà e scriverà su questo cookie che io sono entrato a una certa ora e giorno, che ho visitato tre pagine di sport che riguardano il calcio e una determinata squadra di calcio, per esempio, che ho guardato una pagina che riguarda l'automobilismo e poi me ne sono uscito. Nel momento in cui rientrerò il giorno stesso, il giorno dopo, eccetera, eccetera, queste informazioni verranno aggiornate e quindi a un certo punto dentro quel cookie ci sarà il profilo di una persona che ha, come dire, guardato in maniera particolare il calcio e la Formula 1. Ma nessuno sa chi è quella persona, nessuno sa che si tratta di Massimo Fubini, che ha un indirizzo email, che ha un determinato numero di telefono, è un profilo di navigazione sostanzialmente anonimo. E questo può essere utile per ad esempio, mercato pubblicitario, per far sì che nel momento in cui rientro un'ulteriore volta in quel sito, magari mi viene pubblicizzato un qualche cosa che riguarda lo sport e il calcio e non il golf o la vela o qualche cos'altro. Ma non è un qualche cosa che tocca necessariamente la mia sfera personale, perché io sono, come dire, mascherato, non c'è nessuno che lega quel tipo di profilo a me. Quindi questa modalità di utilizzo dei cookie non è tutto sommato invasiva dell'uso della privacy dal mio punto di vista. Dov'è che nasce il problema? Il problema nasce quando questo tipo di informazioni, quindi il fatto che a me piaccia più il calcio, l'automobilismo, della vela o il golf, o il fatto che io guardi determinati tipi di siti, è legato al mio profilo personale, quindi all'identificazione di Massimo Fubini, di un indirizzo email, di un numero di telefono, eccetera, eccetera. E questo tipo di salto concettuale purtroppo è tutto sommato abbastanza semplice, perché ci sono una serie di siti che offrono dei servizi e che richiedono una registrazione, pensate a Facebook, pensate a Google, ad esempio, loro sanno perfettamente chi voi siete. E tipicamente avete sempre un cookie che vi identifica, perché quasi tutti dicono non mi chiedere username e password tutte le volte che entro, perché sono siti nei quali si entra un sacco di volte al giorno, e quindi noi abbiamo un cookie che ci identifica come un determinato utente di Facebook o di Google. E nel momento in cui noi andiamo a navigare in giro e magari continuiamo a vedere, che so, un sito che riguarda un partito politico, oppure facciamo tutta una serie di ricerche su una determinata malattia, su una determinata patologia, adesso faccio degli esempi volutamente sensibili e particolari, ecco che chi controlla tramite i cookie questo tipo di navigazione può legare queste informazioni non a un profilo anonimo, ma al profilo di Massimo Fubini, al profilo di Mario Rossi e così via. Questa è la profilazione della quale ovviamente bisogna, tra virgolette, avere più paura, soprattutto perché queste informazioni possono essere utilizzate in mille maniere differenti. Magari qualcuno le vende solo per motivi pubblicitari, ma magari qualcun altro potrebbe venderle per fare delle informazioni più specifiche di natura politica e così via. Bene, io ringrazio Massimo Fubini per essere stato con noi, grazie e buon lavoro, a presto. Un consiglio prima di chiudere: cancellate sempre i vostri cookie alla fine della navigazione o impostate il vostro browser per accettare solo i cookie first party. Grazie a tutti. Quindi avete capito, impostare il browser per accettare solo i cookie di prima parte, first party, e non accettare i cookie di terze parti, cioè di tutti, ad esempio, i network pubblicitari, eccetera, eccetera. E un'altra cosa interessante è quella di dire al browser: quando ti chiudo, cancella tutti i dati di navigazione. Adesso ci fermiamo, questo è 2024, riprendiamo tra poco, parleremo di automobili, di quelle che stanno arrivando e anche di quelle che arriveranno tra qualche anno. Riprendiamo questa puntata, vi ricordo i contatti di 2024, l'email 2024@radio24.it, ci trovate anche su Facebook e su Twitter, potete cercarmi scrivendo @e_pagliarini oppure l'indirizzo di 2024. Ringrazio Anita Panizia che ci aiuta durante la settimana in redazione, Adesso noi cambiamo argomento e parliamo di auto connesse. Gran parte delle novità che arriveranno dalle automobili nei prossimi anni arriveranno dall'elettronica di bordo. Quante volte abbiamo già noi accennato e sicuramente avrete sentito nominare il concetto di connected car, cioè di un'auto connessa alla rete internet e in prospettiva poi di auto che sono connesse le une con le altre. Un primo aspetto di questa evoluzione tecnologica è appunto la connettività a bordo delle auto che si connettono a internet direttamente o tramite lo smartphone e che aumenta il grado di infomobilità, di infotronica di bordo, di informazioni, di intrattenimento a bordo dell'automobile. Ne parliamo oggi con Roberto Zompi, che all'interno di Magneti Marelli si occupa di innovazione, di tecnologie, di nuovi prodotti. Roberto Zompi, benvenuto a 2024. Grazie. Anche voi vi occupate di auto connesse. Allora, definiamo brevemente che cosa intendiamo oggi per connected car, quindi l'auto connessa, e che cosa questo rappresenta già oggi, ma sempre più nel futuro per, lo chiamiamo consumatore, in quel caso si chiama pilota, ma poi non c'è solo il pilota, ci sono anche i passeggeri, quindi i consumatori che nel mondo connesso entrano in automobile e anche lì saranno sempre più connessi. Che cosa sta succedendo? Sì, il tema dell'auto connessa è molto interessante. Direi che ha iniziato già da 10 anni almeno, quando per la prima volta abbiamo inserito nei sistemi di intrattenimento di bordo e di telematica la possibilità di collegarsi con l'esterno. Direi che c'è stata una prima ondata che consentiva alle vetture banalmente di mandare messaggi. Adesso quello che si sta vedendo è che, grazie alla diffusione enorme dei cellulari, quindi tutte le funzioni che consentono a un utente anche in vettura di poter stare collegato con funzioni come Facebook, Twitter, eccetera, si sta diversificando in tutti i possibili aspetti. Citerei almeno due domini. Uno appunto è quello legato alle funzioni più per l'utente, no? Quindi ricevere messaggistica, immagini, stare connessi con WhatsApp, eccetera, che è un tipo di connettività direi più consumer entertainment. E l'altro invece è quello che riguarda più il veicolo, per il quale si tende a mettere a bordo una scatola telematica dedicata, in grado quindi di essere sempre funzionante e di dare la possibilità al veicolo di inviare dati a un centro. Quindi probabilmente potrei dire che noi giornalisti, diciamo così, stiamo parlando negli ultimi mesi soprattutto di questa evoluzione, perché quello che si sta vedendo, soprattutto perché ci sono stati degli annunci di Google, di Apple, di Microsoft, stiamo vedendo alcuni servizi per il consumatore, per le persone che stanno in automobile. In realtà tu ci stai dicendo che questo scenario è già iniziato per quanto vi riguarda, cioè per il mondo dei produttori di tecnologie per l'automobile, già da molto tempo. Assolutamente sì. Direi, per quello che riguarda le funzionalità più per l'utente, tutti noi a bordo accendiamo il cellulare e cerchiamo di rimanere connessi anche quando stiamo guidando. Quello che vogliono fare Apple, Google e adesso anche Microsoft, di recente c'è stato un annuncio anche di Microsoft, è quello di consentire questa connettività in una maniera un po' più sicura e controllata, dando la possibilità di collegarsi al sistema di bordo. Quindi, invece di prendere in mano il cellulare per mandare un messaggio, è sufficiente mandare il messaggio grazie al sistema di infotainment integrato in vettura. Quindi si tratta di replicare quasi tutto quello che abbiamo sullo smartphone nel sistema classico, cioè sul cruscotto. Esattamente. Con i vantaggi del caso, cioè che posso pilotarlo con i pulsanti che ci sono sul volante, posso parlare addirittura. Esattamente. Ecco, qui è dove la parte automotive diventa molto importante. Ci sono in tutti i paesi delle regolamentazioni che riguardano la sicurezza, la distrazione, e quindi grazie a queste regolamentazioni occorre offrire all'utente, al guidatore, la modalità di accesso che sia il più sicura possibile. In certi casi vietando per esempio certe funzionalità o rendendo altre funzionalità come la messaggistica fruibile anche durante la guida grazie a sistemi di riconoscimento vocale o addirittura riconoscimento della scrittura. la parte che noi non vediamo, cioè quella dell'automobile che è connessa con la casa automobilistica, l'officina, già oggi esiste. Che cosa esiste in realtà? Cioè che cosa fanno, non tutte le automobili, però già un discreto numero di automobili nel mondo comunicano dati. Che cosa fanno? Che dati comunicano? Forse non tutti sanno, sulla rete vettura transita una quantità di dati enorme. Parliamo di gigabyte al minuto, che sono tutti, cioè, dati dentro l'automobile. Dentro l'automobile. Ci sono delle reti che consentono a tutte le centraline elettroniche di comunicare tra loro i dati. Tutti questi dati riguardano per esempio la presenza o no di passeggeri a bordo, i fari se sono accesi o spenti, qual è l'intensità dei fari, la pressione delle gomme, eventuali anomalie, eccetera, eccetera. Capite che in un periodo in cui si sta parlando di big data, tutti questi dati possono essere usati come minimo per fare della diagnosi remota, tant'è che noi abbiamo già realizzato e sono già sul mercato delle centraline telematiche in grado di comunicare questi dati, e teoricamente uno può, premendo un pulsante, prima di intraprendere un viaggio, sapere se la vettura è in ordine oppure no, oppure sapere se ad esempio l'impianto frenante è prossimo a essere esaurito, per cui occorre già cambiare. Oggi esistono cose del genere? Assolutamente sì, questo direi è il filone che riguarda più la connected car veicolo come veicolo. Quella lato utente invece è quella che dicevamo prima, quella della musica, per esempio. Tu fai parte, sei, diciamo, rappresenti Magneti Marelli all'interno di un consorzio internazionale che si chiama Genivi, scritto Genivi, è un'organizzazione internazionale no profit. Cosa fate? Esiste già da un po' di tempo. Sì. Quindi a conferma del fatto che chi lavora in ambito automobilistico a queste cose ci sta già pensando da parecchio tempo. Sì, direi che i sistemi di infotainment sono diventati sempre più complicati. Questo perché hanno dovuto stare dietro a quello che succedeva per gli smartphone, per i tablet. Quindi per poter ospitare sempre più funzioni e funzioni sempre più complicate, i sistemi di infotainment sono diventati come complessità superiore ai personal computer. Quello che è successo nel passato è che diversi costruttori auto si sono inventati una loro soluzione, frammentando il mercato e creando quindi difficoltà a rendere un'applicazione fruibile da diversi costruttori auto. Genivi punta a eliminare questa frammentazione, ad avere una piattaforma standard, potrei citare come esempio Android, per cui tutti gli sviluppatori possono cercare di mettere delle applicazioni e farle funzionare su diverse vetture. Stiamo parlando di una piattaforma, visto che hai citato Android, di software o non c'è solo software? È prettamente software. Software. Il grosso della complessità oggi è software. Basato su Linux? È basata su Linux, open source. Questo è fondamentale perché l'open source consente di velocizzare il tasso di innovazione. Ci sono migliaia, se non milioni, di sviluppatori nel mondo che sviluppano per Linux e che propongono ogni giorno cose nuove. Quindi è verosimile che dovendo inserire una funzione nuova qualcuno ci ha già pensato e qualcuno ha già prodotto del codice. Sì, la si può prendere e implementare nell'infrastruttura. Che cosa state facendo? Cioè a che punto è l'evoluzione di questo? Io non so se arriverete o già oggi esiste un prodotto, una piattaforma. A che punto siete? E soprattutto ci state riuscendo a creare questo standard? Cioè ci sono tutti a bordo? Ci sono alcune case automobilistiche che continuano ad andare per conto proprio? Allora, Genivi è partita 4 anni fa come alleanza con 4 aziende, tra cui Marelli, e oggi conta più di 170 aziende che coprono, diciamo, tutta la catena del valore. Vanno quindi dai produttori di silicio fino a quel software, ai costruttori di auto, eccetera. Chiaramente non tutti quanti sono ancora a bordo, però tanti si stanno convincendo che è l'approccio giusto. Cioè chi nel passato ha utilizzato sistemi più proprietari fatti ad hoc si stanno rendendo conto che non ce la fanno a stare dietro al tasso di innovazione che troviamo nel mondo consumer. Quindi Genivi in questo caso è la soluzione. I primi prodotti che sono Genivi compliant li abbiamo messi in vettura noi, sono in questo momento già dai dealer della BMW. E per noi è chiaramente una grossa soddisfazione perché ritenendoci un'azienda a forte connotazione tecnologica, essere i primi in un settore di questo tipo Quindi diciamo il consorzio sviluppa una piattaforma, una serie di servizi e soluzioni e poi tutti quelli che fanno parte del consorzio, essendo open source, lo possono utilizzare. Esattamente. Concretamente, che cosa è stato realizzato? Quindi che cosa fa questa piattaforma sul veicolo? Qui devo entrare un po' più nel tecnico. La piattaforma è come un PC, immaginiamola come un PC, dove però la parte più visibile all'utente è quella differenziante tra un prodotto e l'altra, quindi non viene specificata dal Consorzio Genivi. Il Consorzio Genivi si occupa invece di tutte quelle parti intermedie, il middleware, che non ha senso rendere diversi e differenziare, ma tanto vale fare dei blocchi comuni e riutilizzarli dappertutto. Tipo, cioè, collega i sensori, la comunicazione esatto. All'interno del veicolo, cose del genere? Ad esempio l'audio manager oppure il gestore della porta USB. Uno sì. Entra in vettura, attacca una chiavetta, c'è sì. Tutto un software che si preoccupa di leggere la chiavetta, eccetera, eccetera. Capite che questo pezzo di software non è la parte differenziante. La parte differenziante è cosa io vedo a video. Chiaro. In che modo do all'utente la fruibilità dell'accesso alla musica. In che rapporto è Genivi, non dico rapporto diplomatico, ma rapporto tecnologico, con Apple, Google, Microsoft, cito questi tre produttori perché ribadiamo, se il settore dell'automobile vuole riprodurre la nostra vita digitale che oramai è sullo smartphone, sul cruscotto, gioco forza, bisognerà passare da Apple, Google, Microsoft e non so chi altri poi riuscirà ad imporsi. Ecco, qual è il rapporto tra questi due mondi? Allora, Google, Apple e adesso Microsoft hanno definito un protocollo per collegare il cellulare al sistema di bordo. Vediamolo come l'evoluzione del Bluetooth, solo che invece di fare il solo viva voce, posso finalmente vedere tutte le applicazioni che ho sul cellulare. Però è un protocollo, quindi è una delle componenti della piattaforma Genivi, per esempio. Quindi sono complementari, direi, non sono in contrapposizione. Quindi diciamo il substrato di comunicazione, cioè il cuore del sistema è fatto da Genivi o dai produttori di veicoli se vogliono stare per i fatti propri. Apple, Google e Microsoft cercano di mettere i propri sistemi a bordo dell'auto, naturalmente in accordo con i produttori di automobili. Interessante questa evoluzione. Le case automobilistiche non potranno più fare a meno di questi soggetti? Cioè, tu pensi che ci possano essere in futuro sistemi di intrattenimento a bordo di, ho sentito oggi spesso si dice infotronica di bordo, mi piace questo termine, fatti da una casa automobilistica in autonomia, o sarà necessario passare attraverso, cioè si dovranno alleare con Microsoft, Google e Apple? E purtroppo è un cammino tracciato, perché stiamo parlando di ordini di grandezza, di peso sul mercato talmente diversi tra un Google e una qualunque casa automobilistica che possiamo immaginare, che non c'è scampo. Cioè, quindi anche le case automobilistiche sono in gabbia. Anche certo. Loro sì, l'unica cosa che possono fare è cercare di mediare, cioè di rendere fruibili le applicazioni, ma in maniera un po' controllata, non dando proprio il via libera a fare quello che uno vuole in auto, proprio per il problema della distrazione che dicevo all'inizio. Certo, sì, sicuramente. E la prospettiva sarà quella di avere tutti questi sistemi in un'unica auto, quindi indipendentemente da che io entri con un Android, un Windows Phone, un iOS, posso connettere il mio smartphone. Esattamente. È lì che viene in soccorso Genivi, che essendo una piattaforma open consentirà appunto di poter gestire tutti i vari protocolli. Adesso facciamo una breve pausa e poi vorrei farti una domanda sul cloud. Cosa c'entra il cloud e le automobili? Ne parliamo tra poco. 2024. Disponibile anche in podcast su radio24.it. Stiamo parlando di connected cars, cioè le auto connesse, cose che stanno già arrivando, ma saranno una offerta del mercato di massa sicuramente nei prossimi anni. Auto che quindi si connettono alla rete internet, soprattutto attraverso gli smartphone, e come dicevamo poco fa, se io ho un Android, se io ho un iOS, se io ho un Windows Phone, lo smartphone si connette e buona parte delle cose che sono sul mio smartphone vengono riprodotte all'interno del sistema di bordo, di modo che io possa pilotare molte delle cose che oggi uso sullo smartphone attraverso i sistemi di bordo, quindi magari i tasti che ho sul volante o sempre più con comandi vocali. Tutto ciò si svilupperà nei prossimi anni. A questo punto chiedo a Roberto Zompi, che è il nostro ospite in questa seconda parte di 2024, lavora in Magneti e Marelli e si occupa di innovazione di prodotto, di tecnologie anche legate alle Connected Cars. Allora, immaginiamo una prospettiva dove il cloud sia sempre più sviluppato. Io ho la mia identità nel cloud. Possiamo immaginare che, indipendentemente dallo smartphone con il quale entro in automobile, nel cloud ci sia la mia identità, l'auto sia collegata al cloud, a internet, io entro in automobile e tutto quello che io desidero, quindi le mie canzoni, le mie applicazioni preferite, eccetera, eccetera, vengano riprodotte in automobile. Entri tu in automobile e viene riprodotta la tua identità digitale. Questa potrebbe essere una prospettiva dei prossimi anni? Per quanto riguarda l'auto, non credo che potrà proprio esserci un distacco totale. Cioè, comunque, la gente ha in tasca un oggetto per comunicare con la cloud, che potrà essere il cellulare, il tablet, l'orologio o quant'altro. Entrando in vettura si tende a riutilizzare questo oggetto in cooperazione con la vettura, cioè la vettura diventa un companion dell'oggetto che uno si porta addosso, del wearable. Questa è una prospettiva interessante. Se noi volessimo fare un salto di qualche anno, perché noi, diciamo, questa prospettiva è una prospettiva di mesi barra anni, cioè probabilmente la prossima generazione di automobili saranno tutte con questi sistemi? Assolutamente sì, vi posso dire che già dalla fine di quest'anno e anno prossimo già da Magneti e Marelli usciranno sistemi capaci di colloquiare con Apple, eccetera, Android e così via. Sì. Naturalmente alcuni ascoltatori potranno dire: ma c'è già la tal auto che fa questo. Stiamo parlando di prospettive di mercato di massa, sì. Quindi milioni di autoveicoli che hanno a bordo un sistema che possa dialogare in tranquillità con questi. Se noi volessimo fare un passo in avanti, la prossima tappa della Connected Car quale potrebbe essere? Beh, qui io parlerei di veicoli autonomi. Veicolo autonomo. Il salto è di qualche anno, parecchi anni. Esatto. Allora, sì. Se vogliamo fare un passaggio intermedio, parliamo di vetture che sono connesse tra di loro, quindi che nel nostro ambiente lo chiamiamo V2X, cioè Vehicle to Infrastructure, Vehicle to Vehicle, quindi consentire a un veicolo di parlare con l'altro veicolo che si trova a 100 metri più avanti. Questo consente di migliorare la viabilità, di scambiare qualunque tipo di dato che consente di viaggiare meglio. Evitare i tamponamenti, per esempio. E questo è un primo passo. Questo è, diciamo, un'estensione degli attuali sistemi di ausilio alla guida automatica, gli ADAS. Però sono, come dicevo, un passaggio intermedio per arrivare al veicolo autonomo. Il veicolo autonomo è effettivamente il sogno di tutti, come dire, come vado in treno, però vado sulla mia vettura. Mi siedo, dico dove voglio andare e da quel momento in avanti leggo il giornale, guardo il tablet, ascolto musica, sì. Faccio quello che voglio, non mi devo più preoccupare di nulla e decadono quindi i vincoli di distrazione che dicevo all'inizio. A questo punto possiamo veramente dare all'utente quello che vuole. Sì. E voi state già facendo delle sperimentazioni come Magneti e Marelli sul veicolo automatico? Ovviamente sì, sì, siamo molto avanti su questo campo. Sì, so che avete attivato una collaborazione ad esempio col Vislab di Parma, che è un centro d'eccellenza a Parma. Io continuo a dire che il professor Broggi sta facendo a Parma, visto che insiste su quel tema da molti anni, cose che sono a livello delle migliori esperienze nel mondo, se non la migliore, quindi so che voi insomma avete... Sì, infatti abbiamo questo... con loro una collaborazione da più di 10 anni, direi. Sì. Esatto. Se noi dovessimo dare ancora così un'indicazione su quello che succederà nel prossimo anno, possiamo già dire nei prossimi 2-3 anni, tutte le case automobilistiche avranno questi sistemi e soprattutto su tutte le automobili o solo sulle automobili di fascia medio-alta? Esistono effettivamente delle differenziazioni nella gamma prodotto, quindi ci sono prodotti che fanno proprio il minimo essenziale e altri che invece offrono tutto integrato. Questo è ancora un qualcosa che perdurerà per gli anni, ovviamente per un problema di prezzi. Quindi vetture di segmento A, non so, la Panda per dire, avranno un sistema più semplice e veicoli come le BMW serie 5 o 7 avranno invece un sistema completo con magari 2-3 schermi a bordo, eccetera. Tutte quante però avranno la possibilità di collegarsi ai cellulari dell'utente, questo sì. Bene, io ringrazio Roberto Zompi per essere stato con noi, buon lavoro, a presto. Grazie. Adesso chiudiamo questa puntata di 2024 con uno sguardo, come facciamo ogni settimana, a Nova, il settimanale di innovazione del Sole 24 Ore, in edicola come sempre la domenica. Saluto in questo weekend Pierangelo Soldavini. Pierangelo, bentornato a 2024. Ciao Enrico, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Domani su Nova parliamo di internet dal punto di vista dei diritti, cioè tutte quelle cose di cui non teniamo spesso conto, ma che fanno di internet quello che noi conosciamo adesso. Quindi parliamo di banda larga, di net neutrality, cioè di non discriminazione del traffico, di capacità di utilizzare, quindi di alfabetizzazione, di saper leggere e scrivere su internet, che sembrano appunto cose banali, invece sono cose assolutamente importanti e che qualcuno vuole parificare a dei diritti costituzionali. Nel paginone andiamo ad affrontare un tema un po' più tecnico, che è quello del trasferimento tecnologico, vale a dire tutta quella ricerca universitaria che viene fatta e che spesso non trova un obiettivo, un collegamento con le imprese, col mondo reale, non diventa ricerca applicata. L'Italia, e questa non è una novità, è un po' indietro da questo punto di vista. Si tratta di cercare di creare un sistema dell'innovazione che appunto mette in contatto i ricercatori, le università e le imprese. Ci sono già delle buone pratiche in Italia, stanno emergendo. Analizziamo un po' con i dati e con l'esperienza quello che sta succedendo oggi in Italia. Ed è tutto per questa puntata, per questa settimana di 2024. Io sono Enrico Pagliarini, grazie come sempre per la vostra attenzione. Potete raggiungerci scrivendo a 2024@radio24.it. Potete partecipare alla discussione anche sul nostro sito internet, naturalmente, ma soprattutto sulla nostra pagina Facebook. Attraverso Twitter trovate i nostri indirizzi nei motori di ricerca sia su Facebook che su Twitter. Torniamo la prossima settimana, naturalmente come sempre questa puntata sarà disponibile tra poco all'interno del nostro sistema podcast, quindi vi consiglio di abbonarvi gratuitamente al nostro servizio podcast. È tutto, un ringraziamento e un buon ascolto con i nostri programmi. 2024.